senza felpa. Sì, dimmi. Oh zio, ma la bambina ha curiosità. Sì. Perché ti vesti così? Io. Ma dai, raccontaci un po' di te. Perché io. Bevi? Perché fumi? Perché. Ma che progetti hai nella vita? Io sono. Raccontaci un po' che tipo sei. Dai, dai. Io sono un tipo che non parla mai degli altri. Sto sempre zitto, in testa tre cazzi. Non faccio primo nuovo, ma dopo ti levi. Che disse questo uomo, non sei primo Levi. È una favola, fatta solo con i sentimenti. Quell'ego c'era una volta, ma mai felice e contenti. Schifo cioccolato, non ho carenze d'affetto. E poi se vesto rock perché il mondo mi va stretto. Ora lo sai, questi pop, e guarda non si gioca. Nella vita ci vuole stoffa, lascio l'elettrico, vado a moda. Bell'Antonello, faccio un'altra canzone. Mi chiamo Zio, non faccio né il cantante o il cantautore. Quarto superiore, lo grido con orgoglio. All'età di 21 anni per approfondire meglio. Mi dai dello stiloso, per ogni testo rappato. Perché scrivi testa scura, visto che il pop ha studiato. Come me la vivo, quindi adesso ora.